Versetto 1. Betlemme, casa del pane, anticamente detta Efrata, fertile. Era una piccola città appartenente alla tribù di Giuda, situata a sud di Gerusalemme, a circa 2 ore di marcia da questa città. Viene detta di Giuda o come si ha nel testo greco di Giudea, per distinguerla da un villaggio dello stesso nome appartenente alla tribù di Zabulon, al tempo di re Erode, eccetera. Erode il Grande, Indumeno, di origine, era figlio di Antipatro, che sotto il pontificato di Ircano II, 47 a.C., fu da Giulio Cesare nominato procuratore della Giudea. A forza di intrighi, Erode ottenne dal senato romano il titolo di re e regnò dal 714 fino alla primavera del 750 di Roma, in cui morì. Uomo crudele e sanguinario, non ebbe il titolo di grande che per la sua sontuosità dei lavori pubblici eseguiti, quali per esempio il restauro del Tempio di Gerusalemme. È un errore evidente di Dionigi il Piccolo l'aver fatto nascere il Signore nel 754 di Roma e l'avere cominciato da quest'anno l'era volgare. Ecco dei magi. I magi, presso i persiani, i medi e i caldei, costituivano una casta di sacerdoti che si occupava di occultismo, di astrologia e di medicina, e spesso erano i consiglieri del re. Più tardi il nome dei magi si generalizzò e venne detto a tutti i sacerdoti persiani, a tutti quei saggi che studiavano scienze occulte. In quest'ultimo senso viene usato da San Matteo. Quanti siano stati i magi venuti a Betlemme è cosa incerta. La tradizione popolare ne vuole tre e questo numero si trova in Origene, in San Massimo, in San Leone e in alcuni antichi monumenti. Ma altri antichi scrittori ne numerano chi 2, chi 4, chi 6 e chi fin 12. I loro nomi di Bitisarea, Melchior e Gattaspà si trovano per la prima volta in un manoscritto della Biblioteca di Parigi, VII-VIII secolo, mentre quelli di Melchior, Gaspar, Baltasar si trovano per la prima volta nelle opere Dubbie del Beda. Un'applicazione troppo rigorosa delle parole del Salmo 71:10 e di Isaia 49:1 e seguenti ha attribuito ai magi la regia dignità. E tale infatti la tradizione popolare. Ma l'Evangelista non li chiama re, né Erode li tratta come tali. Né gli antichi padri danno loro questo titolo. Vengono dall'Oriente. Questo nome può designare sia l'Arabia, sia la Persia o la Caldea. Rimane per conseguenza incerto quale fosse la patria dei magi, benché il loro nome e il modo con cui vengono dipinti negli antichi monumenti rendono probabile che si fossero originali della Persia. Arrivarono a Gerusalemme probabilmente un anno circa dopo la nascita di Gesù, poiché Erode infatti fece uccidere i bambini dall'età di 2 anni in giù, e prima del massacro degli innocenti dovette dar luogo la presentazione al Tempio. Il viaggio a Nazareth e il ritorno della Sacra Famiglia a Betlemme. Versetto 2. Dove è nato il re, eccetera. Il popolo ebreo, disperso su tutta la terra, aveva portato dunque tradotti in greco i suoi libri sacri con le loro profezie e con la ferma speranza che alla Giudea dovesse sorgere un re a impadronirsi del mondo. Negli ultimi tempi era vivissima questa aspettazione, come si può vedere per esempio nel libro di Enoch e nei salmi di Salomone. Roma stessa ne fu commossa. È probabile pertanto che i magi abbiano avuto contezza di questa aspettazione e alla vista di un astro fino allora sconosciuto, qualche meteora luminosa molto vicina alla terra, illuminati da Dio, abbiano conosciuto che era nato colui che Balaam aveva predetto dover spuntare come una stella. La frase "abbiamo veduto la sua stella" è difficile determinare la natura di questa stella. Se ciò fosse un vero astro, oppure una meteora luminosa creata per la circostanza, simile alla colonna di fuoco che guidava gli ebrei nel deserto. È nota l'ipotesi di Keplero che nella stella dei magi volle vedere una congiunzione dei pianeti Giove, Saturno e Marte avvenuta nel 747-748 di Roma e accompagnata dall'apparizione di una cometa. Ci sembra però più probabile che questa stella sia stata una meteora luminosa molto vicina alla Terra, poiché, al versetto 9, è detto che ei fermò sopra il luogo dove il fanciullo. Come avrebbe potuto indicare una casa determinata se avesse tenuto il corso delle altre stelle? L'Evangelista non dice che la stella li abbia guidati nel villaggio a Gerusalemme, ma che apparve loro in Oriente ed essi vennero alla capitale della Giudea. I maestri giudei dovevano loro far conoscere il luogo preciso dove Gesù era nato. Ma essendosi invece mostrati incuranti e non avendoli voluto accompagnare a Betlemme, apparve loro nuovamente la stella e li guidò al Messia. Versetto 3. La frase il re Erode si turbò, temendo di venire sbalzato dal trono. A parte del suo timore erano pure tutti i suoi aderenti. Versetto 4. La frase principi dei sacerdoti sono i capi delle 24 famiglie sacerdotali. Scribi o dottori della legge venivano detti coloro che studiavano la legge di Mosè e le sue pratiche applicazioni ai casi della vita. I principi dei sacerdoti, i principali scribi e i capi del popolo formavano il sinedrio che adunavasi per trattare le più importanti questioni. Versetto 6. La frase la citazione. Benché fede quanto al senso non è letterale e si scosta leggermente sia dal 70 che dal testo massoretico, secondo i massoreti il profeta Michea scrive: E tu, Betlemme Efrata, sei ben piccola tra i villaggi di 1000 abitanti di Giudea, pure da te mi uscirà il duce in Israele. Versetto 7, la frase chiamati segretamente. Erode teme che si abusi contro di lui della nascita del re dei giudei e, avendo già formato perfidi disegni, cerca di dissuaderli e non destar sospetti. Versetto 11, la frase entrati nella casa. La sacra famiglia, quando arrivarono i magi, aveva già abbandonato la grotta dove Gesù era nato. I magi adorarono Gesù, vale a dire si prostrarono a terra come usano gli orientali e lo riconobbero come loro re e loro salvatore. In Oriente nessuno si prostra davanti al re senza offrirgli doni. I magi offrirono a Gesù le cose migliori dell'Oriente, l'oro come a re, l'incenso come a Dio e la mirra come a uomo mortale. Nei magi si ha la primizia dei gentili che si convertono a Gesù. E i santissimi padri hanno ravvisato nell'oro la fede e lo splendore delle buone opere, nell'incenso la pietà o la preghiera, nella mirra la castità o la mortificazione. Versetto 13. Erode non poteva a lungo ignorare né la partenza dei magi né la casa dove erano entrati. Perciò, appena partiti i magi, subito la Sacra Famiglia dovette mettersi in viaggio per l'Egitto. L'Egitto non è molto distante dalla Palestina e le strade che vi conducevano, essendo percorse da molte carovane, erano sicure. La Sacra Famiglia poteva inoltre facilmente trovare da vivere in mezzo alle fiorenti colonie che i giudei vi possedevano. Versetto 15. Il profeta citò Eosea 11:1 e la citazione è fatta sul testo ebraico. Queste parole, in senso letterale, si intendono del popolo di Israele liberato da Dio dalla servitù di Egitto, ma nel senso spirituale si intendono di Gesù Cristo. Versetto 16. Questo modo di agire di Erode è conforme ai suoi istanti crudeli e perversi. Basti dire che egli fece uccidere la sua moglie e tre dei suoi figli e suo fratello, e per semplici sospetti condannava a morte i suoi migliori amici. Se si considera che Betlemme è una piccola città e il suo territorio ristretto, si comprenderà che il numero degli innocenti uccisi non deve essere molto grande. Knab dà come massimo il numero di 20, Vig il 30. Versetto 18. La citazione è libera ed è fatta sul testo ebraico. Rama trovasi a 2 ore a nord di Gerusalemme, nella tribù di Beniamino, al confine con quella di Efraim. In Rama furono raccolti i prigionieri giudei che Nabucodonosor, dopo la distruzione di Gerusalemme, condusse a Babilonia. Il profeta, per dipingere a vivi colori la disolazione del popolo, immagina che Rachele, madre di Beniamino, sorga dalla sua tomba vicino a Betlemme e venga a piangere sulla sventura toccata ai suoi figli, riempiendo l'aria dei suoi lamenti. Ora il dolore di Rachele era una figura del dolore delle madri di Betlemme. Un'altra volta Rachele piange sulla sorte dei suoi figli. Versetto 19. Erode morì di una morte ignominiosa. La famiglia ritornò in Palestina subito dopo la morte di Erode. Non dovete quindi fermarsi in Egitto che per breve tempo. Versetto 22. Archelao era figlio di Erode e di Matace. Chiamato dal padre a succedergli nel regno di Giudea, non volle prendere il titolo di re, ma prima si recò da Augusto per essere autorizzato. Tornò da Roma in qualità di etnarca e governò per 9 anni, dal 750 al 759, età di Roma. La Giudea, la Samaria e l'Idumea. Fu uomo così crudele che Augusto dovette destituirlo ed esiliarlo a Vienna nelle Gallie. La crudeltà di Archelao poteva essere pericolosa per il bambino Gesù, quindi l'angelo ordina a Giuseppe di ritirarsi nella Galilea, la quale era governata da Antipa, altro figlio di Erode, uomo di carattere indolente e pacifico. Versetto 23. Nazareth. Nazareth è una piccola cittadina della Bassa Galilea, situata in regione Amenissima, ad ovest del lago di Tiberiade, sui confini della tribù di Zabulon. Trovasi a circa 3 giorni di marcia da Gerusalemme. Non è mai ricordata nell'Antico Testamento, e tanto essa che i suoi abitanti erano soggetti di disprezzo presso i giudei. Giovanni 1,46. Eppure Gesù soleva essere chiamato Nazareno. Perciò l'Evangelista, volendo rendere onorato questo nome, mostra come esso fosse già stato dato dai profeti al Messia. Benché infatti la profezia cita non si trovi letteralmente nell'Antico Testamento, tuttavia Isaia 11,1 aveva chiamato il Messia Nezer, germoglio, virgulto. Geremia nel capitolo 23, 5, 30, 15, Zaccaria nel capitolo 3, versetto 8, capitolo 6, versetto 12, l'avevano detto Zema, germe. Fu pertanto un tratto speciale della provvidenza che Gesù andasse ad abitare in Nazare, che significa appunto germoglio, virgulto, fiore, eccetera, eccetera.